giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Buongiorno e buona domenica dalla testata giornalistica regionale. Ai microfoni Lara Zani e Antonio Cagliazza. In primavera partiranno i bandi regionali per la ristrutturazione di edifici privati con un finanziamento iniziale di 50 milioni di euro. Gli incentivi destinati a interventi di risparmio energetico e di riqualificazione sono stati approvati dalla Giunta e passeranno al Consiglio regionale. Dovrebbero vedere la luce in primavera e avere un finanziamento iniziale di 50 milioni di euro. I bandi regionali che con due distinte misure andranno a sostenere interventi di ristrutturazione di edifici privati. Da una parte quelli per il risparmio energetico, dall'altra vere e proprie riqualificazioni degli immobili. Per ora si tratta di una proposta di legge che ha avuto il via libera della Giunta regionale negli ultimi giorni di attività dell'esecutivo, prima della pausa natalizia. Nei prossimi mesi dovrà passare al vaglio della commissione competente per poi approdare in Consiglio regionale. Gli incentivi, spiega l'assessore regionale a infrastrutture e territorio Cristina Mirante, saranno di due tipi: a sportello, con un meccanismo analogo a quello per il fotovoltaico, per interventi di riduzione del consumo energetico come la realizzazione di cappotti e la sostituzione dei serramenti, con una graduatoria invece per interventi più importanti di ristrutturazione degli edifici. Criteri e priorità per l'assegnazione degli incentivi saranno definiti in seguito. Quanto agli stanziamenti, la somma iniziale dovrebbe essere di 50 milioni di euro, ma la volontà dell'amministrazione regionale è quella di integrarla in seguito. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Si è autosospeso il primario di cardiochirurgia dell'ospedale di Cattinara di Trieste, Enzo Mazzaro, dopo l'onda di insulti e di minacce ricevute dopo che un paziente, seguito dal 2021 e che ha sempre rifiutato intervento chirurgico e somministrazione di vaccini, ha postato un messaggio in cui sosteneva di essere stato cancellato dalle liste d'attesa per essere operato perché non vaccinato. Al paziente nel 2021 fu diagnosticata una cardiopatia valvolare. Solo di recente aveva considerato l'eventualità di farsi operare e per questo era stato nuovamente contattato, programmando per gennaio 2025 gli esami prima dell'intervento, spiega Asugi, e questo indipendentemente dai vaccini. Eventualità sulla quale poi il paziente aveva avuto un ripensamento. Il caso ha sollevato un'ondata di minacce e di reazioni violente sui social all'indirizzo del primario. Nei suoi confronti in mattinata ha espresso solidarietà anche il presidente della regione Fedriga. Solidarietà al professor Mazzaro, una campagna d'odio basata su falsità, anche dopo il chiarimento di Asugi, ha portato a minacce di morte al professionista e alla sua famiglia. Ringrazio tutto il personale sanitario che ogni giorno salva vite umane, ha scritto Fedriga. Una persona è stata soccorsa in mattinata a Montereale Valcellina dopo che in seguito a un malore era scivolata dal sentiero che stava percorrendo. Sul posto per recuperarla sono intervenuti i vigili del fuoco della squadra di Maniago, il nucleo speleo alpino fluviale, il soccorso alpino e la SORES. Poco fa la persona è stata raggiunta e imbarellata per il trasferimento in ospedale. E durante la notte, fra le 20 e le 2:30, la stazione di Cave del Predil del soccorso alpino assieme alla Guardia di Finanza è intervenuta con 6 tecnici per soccorrere un uomo di 26 anni che si trovava in difficoltà sugli Yoff di Sompdogna, nelle Alpi Giulie. Si trattava di un escursionista della provincia di Udine partito dal rifugio greco con l'intenzione di trascorrere la notte al bivacco Stuparic. Lungo il sentiero, seguendo le tracce sbagliate nella neve, si è invece portato verso lo Yoff di Sompdogna, dove è stato sorpreso dal buio. A quota 1800 ha trovato i resti di fortificazioni della Grande Guerra, presso i quali si è riparato chiamando i soccorsi tramite il 112. Le squadre dei soccorritori si sono portate al rifugio greco con la motoslitta della Guardia di Finanza e da qui sono partite a piedi, raggiungendo l'escursionista attorno alle 23. Tempo di bilancio e di prospettive anche per il Trieste Airport. Il 2024 è stato un nuovo anno da record, con oltre 1.300.000 passeggeri transitati, un aumento del volume di traffico del 41%. Da Marco Consalvo, direttore generale dello Scavo, sentiamo anche qual è il piano di investimenti per il futuro. È stato un anno molto importante, il migliore di sempre, perché quest'anno cresciamo sul 2023 del 41% dei volumi di traffico. Già il 2023 era l'anno del record storico dell'aeroporto con 930.000 passeggeri, quest'anno superiamo 1.300.000 passeggeri, quindi è un dato davvero significativo, insieme al numero di destinazioni che è cresciuto tantissimo. La scorsa estate avevamo 22 destinazioni, la prossima estate, che parte da fine marzo 2025, avremo 27 destinazioni, tra cui Rotterdam, che verrà operato da Transavia, Ryanair invece aprirà Stoccolma e Praga, e la Lamezia Terme come volo domestico, e si aggiungerà il Bucarest operato da Wizz Air, che è già partito da novembre 2024. Parliamo anche degli investimenti economici. Sì, noi abbiamo un piano quadriennale di interventi, di investimenti, e nei prossimi tre anni abbiamo programmato circa 30 milioni di euro per opere di miglioramento e di ottimizzazione dello scalo. 15 di questi 30 già nel 2025 ci saranno interventi significativi, soprattutto sull'area esterna al terminal, come viabilità di accesso. Verrà realizzata una ciclabile che sarà baricentrica rispetto alle ciclovie regionali, ci sarà una sala arrivi extra Schengen dei voli extra UE ampliata, che si raddoppierà, e una serie di interventi all'interno del terminal. Ronchi dei legionari, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Situazione meteorologica, cielo sereno sulla regione, ecco le temperature alle 11, a Trieste e a Udine 12 gradi e mezzo, a Gorizia 11, a Pordenone 8, Forni di Sopra 10 gradi e 5, Tolmezzo 7, Piancavallo 5,5, Sappada 1 grado, Tarvisio 5 decimi, sullo Zoncolan e sul Lussari 7 gradi, a Lignano 8 gradi e mezzo e a Grado 8. E vediamo le previsioni dell'ARPA Friuli Venezia Giulia per il pomeriggio. Cielo sereno su tutta la regione con inversioni termiche in montagna e zero termico a circa 2600 metri. Marcata escursione termica in pianura. Mancano due giorni alle feste di fine anno organizzate nelle quattro città della regione e anche nelle località minori. Nel prossimo servizio un quadro di quanto si sta predisponendo nei quattro capoluoghi. L'appuntamento per il San Silvestro triestino è alle 22.30, quando le luci si accenderanno sul palco di Piazza Unità, che l'amministrazione ha iniziato a far allestire subito dopo le feste di Natale ed è quasi ormai pronto. Per l'intrattenimento gli organizzatori si sono affidati a tre disc giochi, e per salutare l'anno nuovo, dopo il conto alla rovescia, è previsto il classico brindisi, il valzer di Strauss e il lancio di fuochi d'artificio. Ballo e divertimenti sono in programma fino all'una e mezza di notte. In chiave sicurezza il comune ha diffuso un'ordinanza che vieta l'ingresso in piazza di bevande in lattine e contenitori di vetro e non consente il consumo di alcolici con una gradazione superiore a 6 gradi. Proibito inoltre avere con sé oggetti metallici e pericolosi. Quattro i varchi di accesso alla piazza, cioè da via dell'Orologio, passo Fonda Savio, dal Palazzo della Regione e da quello della Prefettura, mentre la circolazione delle auto sulle rive sarà interrotta tra le 8 di sera di San Silvestro fino alle 2 di mattina del 1 gennaio. A Udine la festa per l'anno nuovo è in calendario dalle 21 in piazza Primo Maggio, con musica e DJ set, e proseguirà fino a mezzanotte con lo spettacolo pirotecnico dal castello, mentre a Pordenone, in piazza 20 settembre, sarà animata da uno show di musica anni 70. Grande novità la festa di Gorizia, dove oltre alla musica in piazza Vittoria è in programma uno spettacolo di droni che disegneranno sopra il castello grafiche e immagini. Trieste, Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia. E ora lo sport con il calcio. Oggi l'Udinese scende in campo allo Stadio Friuli contro il Torino. La partita comincerà alle 12.30. Ieri, nella conferenza stampa della vigilia, mister Rugnaic aveva chiesto alla propria squadra impegno e concentrazione e aveva sottolineato l'importanza del legame che si sta costruendo con i tifosi, anche con gli allenamenti aperti al pubblico. Il basket in A1, la Pallacanestro Trieste affronta al Pala Trieste la Reier Venezia nell'attesissimo derby del Triveneto, dove in palio ci sono anche i due punti fondamentali con l'obiettivo di andare a Torino per le Final Eight di Coppa Italia. Appuntamento dunque alle 18.15 sul parquet di Valmaura. In A2 alle 18 in campo entrambe le squadre friulane di pallacanestro, Cividale impegnata a Torino e Udine in casa contro Orzinuovi. Per la rassegna natale in Val Pesarina in programma oggi Il segreto della casa, presentazione del nuovo libro di Giovanna Simonetti, alle 17 nell'auditorium comunale di Pieria di Prato Carnico. In serata nello stesso auditorium Hurling Tour, The New Victory Gospel Voice, alle 21. Seconda serata al Teatro Miera di Trieste con il Clown Gala del collettivo Clown di Milano. Sul palco si avvicenderanno alcuni tra i saltimbanchi più rinomati della rassegna, alle 18. Sono le 12:25. L'assistenza tecnica è stata assicurata a questa edizione da Giuliano Pecorari, Walter Bidonis e Federico Comar. Ha collaborato in redazione Laura Sarasini. Con la nostra informazione torna in TV col telegiornale in onda su Rai 3 alle 14 e alla radio oggi col GR delle 18:30 su questa frequenza. Grazie della cortese attenzione da Lara Zani e da Antonio Cagliazza. Buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.